che lo faccia qualcun altro al posto nostro, ma dobbiamo farlo tutti dal basso. Molti cittadini hanno cominciato a unirsi dunque ed organizzarsi. Ettore Di Cesare, 46 anni, laureato in matematica, imprenditore nel campo delle nuove tecnologie, è il candidato sindaco del Movimento Civico Appello per l'Aquila. Massimo Cialente è il candidato uscente. Non è detto sia il candidato presentato dal centrosinistra, che infatti a marzo andrà alle primarie. Ma, essendo stato alla guida della città, vogliamo sentire da lui cosa c'è da fare all'Aquila. Guarda, io sono impegnato in prima persona perché la ricostruzione è completamente ferma. Io continuo ad avere gente, i miei concittadini, dentro gli alberghi, per cui spendiamo oltre 100.000 euro al giorno, ripeto, 100.000 euro al giorno per assistere a queste persone. Comunque il tema è quello, il tema della casa, il tema della ricostruzione. Io veramente inserisco anche il tema della ricostruzione del progetto della città, ma da un punto di vista strategico, cioè anche cosa sarà la città. In Sicilia la tornata elettorale di maggio riguarderà molti piccoli comuni e almeno quattro grandi città: Palermo, Agrigento, Marsala e Trapani. La vera partita, anche per l'entusiasmo che si sta creando, è però a Palermo. La città è anche quella che versa nella peggiore situazione economica. Da quasi un mese non ha un sindaco ma un commissario straordinario, Luisa Latella. Il 17 gennaio l'allora sindaco del PDL, Diego Cammarata, rassegna le dimissioni ad appena quattro mesi dalla scadenza naturale. Me ne vado per un atto d'amore verso questa città, dirà. La realtà, invece, secondo i palermitani, è che la città è al collasso economico, a un passo dalla bancarotta. In tutta questa storia pesa il tracollo delle partecipate, come la municipalizzata Amia, l'azienda per i rifiuti con 18 milioni di debito, e l'AMAT, la società dei trasporti. Ci lavorano 2.000 persone, il bilancio è in rosso con una perdita di 8 milioni di euro. Chi deve raccogliere i cocci è dunque soprattutto il PDL, che infatti sta facendo una campagna elettorale dai toni molto pacati e semplici. Enrico La Loggia è il coordinatore per Palermo. Ma stiamo intanto verificando tutte le possibili alleanze omogenee rispetto al centrodestra per poter esprimere candidature quanto più possibile vincenti. A Palermo ci sarà tanto da fare, soprattutto dopo Cammarata. Insomma, il PDL dovrà veramente fare un grosso lavoro per riprendersi la fiducia degli elettori. Sono molto ottimista. Insomma, chi governerà la città di Palermo avrà molto da fare. Prima di arrivare a capire chi saranno i candidati, bisognerà capire chi passerà le primarie. Le hanno indette sia nel PD che nel PDL e più o meno le date per votare sono vicine. Si parla della prima e della seconda settimana di marzo. Ma per il PD i giochi sono praticamente fatti, come ci racconta Giuseppe Lupo, segretario regionale del Partito Democratico. Possiamo vincere le elezioni con una candidatura forte, che noi sosteniamo, che è quella di Rita Borsellino, appunto per dare la svolta politica e amministrativa di cui la città ha bisogno. Noi peraltro proponiamo una candidata che è appunto Rita Borsellino, che è la migliore rappresentante che il centrosinistra potesse avere a Palermo, ma che è una candidata che aggrega anche consensi che vanno oltre il centrosinistra tradizionale, consensi che vengono dalla società civile organizzata, dai movimenti, dal mondo del volontariato, dall'elettorato cattolico. Cioè quella di Rita è una candidatura sicuramente del centrosinistra, ma ha una grande capacità di espansione, di attrazione di consenso. 80.000 abitanti, periferia nord di Milano, un percorso di riutilizzo delle fabbriche che fecero la storia del territorio e dell'economia milanese. Sesto San Giovanni non è una città qualsiasi per la sinistra italiana, è una delle poche realtà del nord a non avere mai avuto un sindaco di centrodestra. Si chiude gli occhi, lui lo sa. Lupo di periferia. La chiamavano la Stalingrado d'Italia. Aveva fabbriche come Falck, Magneti Marelli, Ercole Marelli, Pirelli e migliaia di operai. Era il luogo raccontato da registi e scrittori. Quando nel 71 uscì La classe operaia va in paradiso, era quel tessuto che si voleva raccontare, fatto di tensioni e bisogni quasi disperati. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Avanti per queste quattro lire vigliacche fino alla morte! Erano anni di fermento sociale.